Ma fatta partire questa lettera, mi prese di colpo il sospetto che quando Albertine m'aveva scritto «Sarei stata felicissima di tornare se me l'aveste scritto direttamente», me l'avesse detto solo perché non glielo avevo scritto direttamente e che, se lo avessi fatto, non sarebbe tornata comunque. Che sarebbe stata contenta di sapere André mia ospite, poi mia moglie, a patto che lei, Albertine, fosse libera dal momento che adesso, da 8 giorni ormai, mandando all'aria le precauzioni che avevo prese ogni ora per più di 6 mesi a Parigi, poteva abbandonarsi ai suoi vizi e fare quello che minuto per minuto io avevo impedito. Mi dicevo che qua giù, probabilmente, faceva cattivo uso della sua libertà. E questa idea mi sembrava triste, certo, ma restava generica, perché non mi faceva vedere niente di particolare e, inducendomi a supporre un numero indefinito di amanti possibili, non lasciava che mi fermassi su nessuna e trascinava la mia mente in una sorta di moto perpetuo non esente da dolore, ma un dolore sopportabile per mancanza di immagine concreta. Smise però di essere tale e si fece atroce quando arrivò Saint-Loup. Ma prima di spiegare perché le parole che mi disse mi resero tanto infelice, devo riferire un incidente che si colloca immediatamente prima della sua visita e il cui ricordo mi turbò poi a tal punto da indebolire, se non l'impressione penosa prodottami dalla mia conversazione con Saint-Loup, perlomeno la portata pratica della conversazione stessa. Ecco di cosa si trattò. Bruciando d'impazienza di vedere Saint-Loup, lo aspettavo sulle scale, cosa che non avrei potuto fare se ci fosse stata mia madre, giacché era la cosa al mondo che detestava di più dopo il parlare dalla finestra, quando sentii le seguenti parole. «Come? Non siete capace di far licenziare qualcuno che non vi piace? Non è difficile. Basta, per esempio, che nascondiate le cose che deve portare. Così, quando i padroni hanno fretta, lo chiamano, lui non trova niente, perde la testa. Mia zia s'arrabbierà con lui, vi dirà «Ma cosa sta combinando?» Quando il ritardo arriverà, tutti saranno furiosi e lui non avrà quello che dovrebbe avere. Dopo 4 o 5 volte potete star sicuro che lo licenzieranno, soprattutto se non dimenticherete di sporcare di nascosto le cose che quando le porta dovrebbero essere pulite e 1000 altri trucchi del genere. Rimasi muto di stupefazione, perché quelle parole machiavelliche e crudeli erano pronunciate dalla voce di Saint-Loup. L'avevo sempre considerato un essere così buono, così pietoso con i disgraziati che avevo l'impressione che stesse recitando la parte di Satana. No, non era possibile che parlasse a proprio nome. «Ma bisogna pure che tutti possano guadagnarsi da vivere», disse il suo interlocutore che scorsi in quel momento e che era uno dei lacchè della duchessa di Guermont. «E cosa ve ne importa dal momento che starete bene voi?» rispose perfidamente Saint-Loup. «In più, vi prenderete il gusto d'avere uno zimbello. Potete benissimo rovesciargli dei calamai sulla livrea quando deve servire a qualche pranzo importante. Insomma, non lasciargli un momento di tregua, così, alla fine, preferirà andarsene. Io, del resto, rincarerò la dose. Dirò a mia zia che avete una bella pazienza a servire assieme a un tipo così maldestro e così trasandato». Mi feci vedere. Saint-Loup venne verso di me, ma la mia fiducia in lui vacillava dopo che l'avevo sentito così diverso da come lo conoscevo. E mi chiedevo se uno capace d'agire con tanta crudeltà verso un disgraziato non si fosse comportato da traditore con me nella missione presso Madame Bontemps. Questa riflessione servì soprattutto, una volta che mi ebbe lasciato, a non farmi considerare il suo insuccesso come una prova dell'impossibilità di riuscire. Ma finché mi fu vicino, era pur sempre al Saint-Loup d'un tempo che pensavo e soprattutto all'amico che aveva appena lasciato Madame Bontemps. Per prima cosa mi disse «Non sei contento di me, l'ho capito dai tuoi telegrammi, ma non sei giusto, ho fatto tutto quel che ho potuto. Penserai che avrei dovuto telefonarti più spesso, ma mi dicevano sempre che era occupato». Il culmine della mia sofferenza lo raggiunsi però quando mi disse «Per cominciare da dove ti ho lasciato con l'ultimo telegramma, dopo essere passato per una specie di rimessa, sono entrato in casa e alla fine d'un lungo corridoio mi hanno fatto entrare in un salotto. A quelle parole, rimessa, corridoio, salotto, e prima ancora che Robert avesse finito di pronunciarle, il mio cuore fu sconvolto più rapidamente che se mi avessero attaccato alla corrente elettrica, giacché la forza che fa più volte il giro della Terra in un secondo non è l'elettricità, è il dolore. Come le ripetei, rinnovando a bella posta lo shock, quelle parole, rimessa, corridoio, salotto, dopo che Saint-Loup se ne fu andato. In una rimessa ci si può nascondere con un'amica. E in quel salotto chissà cosa ci faceva Albertin quando non c'era sua zia. Ma come? Nel rappresentarmi la casa in cui abitava Albertin, avevo forse pensato che non potessero esserci né rimessa né salotto. No, non me l'ero rappresentata per niente, o come un luogo indefinito. Avevo sofferto una prima volta quando il luogo dove lei stava si era individualizzato geograficamente, quando avevo saputo che, anziché essere in due o tre posti possibili, lei era in Touran. Le parole della sua portinaia avevano impresso nel mio cuore, come su una mappa, il punto in cui alla fine bisognava soffrire. Ma una volta abituato all'idea che fosse in una casa della Touran, non avevo ancora visto la casa. Mai s'era presentata alla mia immaginazione quella spaventosa idea del salotto, della rimessa, del corridoio che mi apparivano adesso, dritto davanti a me sulla retina di Saint-Loup che le aveva viste, come le stanze in cui Albertina andava, passava, viveva. Quelle stanze là in particolare e non un'infinità di stanze possibili che si erano distrutte a vicenda, con le parole rimessa, corridoio, salotto. Mi apparve la mia follia d'aver lasciato Albertin per 8 giorni in quel luogo maledetto, la cui esistenza e non la semplice possibilità mi era stata appena rivelata. Ahimè, quando Saint-Loup mi disse anche che stando in quel salotto aveva sentito cantare a squarciagola da una camera vicina e che era Albertin che cantava, mi resi conto con disperazione che, sbarazzatasi finalmente di me, Albertin era felice. Aveva riconquistato la sua libertà. E io che pensavo che sarebbe venuta a prendere il posto di André. Il mio dolore si mutò in collera contro Saint-Loup. È l'unica cosa che t'avevo chiesto di evitare, che lei sapesse del tuo arrivo. Se credi che fosse facile. Mi avevano assicurato che non c'era. Oh, lo so che non sei contento di me, l'ho capito dai tuoi telegrammi, ma non sei giusto, ho fatto quel che ho potuto. Nuovamente sfuggitami. Evasa dalla gabbia dalla quale, a casa, lasciavo passare giorni interi senza farla venire in camera mia, Albertina aveva riacquistato per me tutto il suo valore. Era ridiventata quella che tutti rincorrevano, l'uccello meraviglioso dei primi tempi. Allora, riassumiamo. Per la faccenda soldi non so cosa dirti. La donna con cui ho parlato mi è parsa tanto delicata che avevo paura di offenderla. Poi, quando le ho detto del denaro, non ha battuto ciglio, anzi, dopo un po' mi ha detto quanto fosse contenta di vedere che ci capivamo così bene. Eppure, tutto quel che mi ha detto in seguito era così delicato, così elevato, che mi sembrava impossibile che a proposito del denaro che le offrivo mi avesse detto ci capiamo così bene, visto che in fin dei conti mi stavo comportando come un villanzone. Ma non ha capito forse, forse non ha sentito, avresti dovuto ripeterglielo, ce l'avresti fatta, sicuramente ce l'avresti fatta, ma come puoi pensare che non abbia sentito? Gliel'ho detto come sto parlando con te, non è né sorda né pazza. E non ha fatto nessuna osservazione. Nessuna. Avresti dovuto dirglielo un'altra volta. Ma come facevo a ridirglielo? Non appena l'ho vista entrando, mi son detto che t'eri sbagliato, che mi facevi fare una gaffe spaventosa. Era terribilmente difficile offrirle il denaro in quel modo. L'ho fatto comunque, per obbedirti, convinto che mi avrebbe fatto sbatter fuori. Ma non l'ha fatto. Dunque, o non aveva sentito e bisognava ricominciare, o potevate approfondire l'argomento. Dici non aveva sentito perché sei qui, ma ti ripeto, se avessi seguito la nostra conversazione non c'era nessun rumore. Gliel'ho detto brutalmente, non è possibile che non abbia capito. Ma insomma, è convinta o no che ho sempre voluto sposare sua nipote? No, quanto a questo, se vuoi il mio parere, non credeva per niente che tu intendessi sposarla. Tu stesso, a sentir lei, avevi detto ad Albertin che volevi lasciarla e anche adesso non saprei dire se sia convinta che tu la vuoi sposare. Questo mi rassicurava un po', mostrandomi che ero meno umiliato e dunque più suscettibile ancora d'essere amato, più libero di fare una mossa decisiva. Ma anche così ero tormentato. Mi dispiace perché vedo che non sei contento. Ma sì, sono commosso, ti sono grato della tua gentilezza. Ma mi sembra che avresti potuto... Ho fatto del mio meglio. Un altro non avrebbe potuto fare di più e neanche altrettanto. Prova, prova con un altro. Ma no, figuriamoci. Se avessi saputo non t'avrei mandato, ma è proprio il fallimento della tua missione a impedirmi di intraprenderne un'altra. Gli facevo dei rimproveri. Aveva cercato di rendermi un servizio e non c'era riuscito. Venendo via, Saint-Lou aveva incrociato delle fanciulle che entravano. Avevo già fatto parecchie volte la supposizione che Albertine in paese conoscesse delle fanciulle, ma adesso, per la prima volta, ne sentivo la tortura. C'è veramente da credere che la natura abbia concesso alla nostra mente di secernere un contravveleno naturale capace di annientare le supposizioni che facciamo senza sosta e al tempo stesso senza rischio. Ma niente mi immunizzava contro quelle fanciulle incontrate da Saint-Lou. Ma non erano tutti questi particolari precisamente quel che avevo cercato di ottenere da tutti sul conto di Albertine? Non ero stato io che, per conoscerli con maggiore esattezza, avevo chiesto a Saint-Lou, richiamato dal suo colonnello, di passare da me a qualsiasi costo? Non ero stato io, insomma, a desiderarli? Io, o meglio, il mio dolore affamato, avido di crescere e di nutrirsene? Saint-Lou, alla fine, m'aveva detto di aver avuto la bella sorpresa di incontrare, vicinissimo alla unica faccia conosciuta e che gli aveva ricordato il passato, un'ex amica di Rachel, una graziosa attrice in villeggiatura da quelle parti. E il nome di costei fu sufficiente perché mi dicessi: «Forse è con lei che lo fa». Sufficiente a farmi vedere, fra le braccia d'una donna che non conoscevo, Albertine sorridente e rossa di piacere. E in fin dei conti, perché no? Avevo forse tralasciato io di pensare a delle donne da quando conoscevo Albertine? La sera che ero stato per la prima volta dalla principessa di Guermantes, tornando a casa, non avevo forse pensato molto meno a quest'ultima che alla fanciulla di cui m'aveva parlato Saint-Lou e che frequentava le case d'appuntamenti e alla cameriera di Madame Poutou? Non era forse per quest'ultima che ero tornato a Balbec? Più recentemente, avevo ben avuto voglia d'andare a Venezia, perché mai Albertine non avrebbe dovuto aver voglia d'andare in Touraine? Solo che, alla fin fine, me ne accorgevo adesso, io non l'avrei lasciata. Non ci sarei andato io a Venezia. Anche nel fondo di me stesso, proprio nel momento in cui mi dicevo «presto la lascerò», sapevo che non l'avrei più lasciata, esattamente come sapevo che non mi sarei più messo a lavorare né a fare una vita igienica, insomma, tutto ciò che ogni giorno mi ripromettevo per l'indomani. Semplicemente, a prescindere da quel che pensavo nel fondo, m'era parso più abile farla vivere sotto la minaccia d'una perpetua separazione. E certo, grazie alla mia detestabile abilità, l'avevo sin troppo persuasa. Adesso comunque le cose non potevano continuare così. Non potevo lasciarla in Touraine con quelle fanciulle, con quell'attrice. Non potevo sopportare il pensiero di quella vita che mi sfuggiva. Avrei aspettato la sua risposta alla mia lettera. Se stava facendo del male, ahimè, un giorno in più o un giorno in meno non aveva importanza. E forse lo pensavo perché, non avendo più l'abitudine di farmi render conto di ciascuno dei suoi minuti, in uno solo dei quali m'avrebbe sconvolto saperla libera, per la mia gelosia non valeva più la stessa divisione del tempo. Ma ricevuta la sua risposta, se non fosse tornata, sarei andato immediatamente a cercarla. Per amore o per forza l'avrei strappata alle sue amiche. Del resto, non era meglio che ci andassi di persona, ora che avevo scoperto la perfidia finora insospettata di Saint-Lou? Chissà che non avessi organizzato tutto un complotto per separarmi da Albertine. O perché ero cambiato io, o perché allora non avrei mai pensato che delle cause naturali mi avrebbero portato un giorno a una situazione tanto eccezionale, certo è che adesso non sarei stato sincero se le avessi scritto, come le dicevo a Parigi, che speravo che non le capitasse qualche incidente. Ah, se gliene fosse capitato uno, la mia vita, smettendo d'essere avvelenata da questa incessante gelosia, avrebbe ritrovato di colpo, se non la felicità, perlomeno la calma, attraverso la soppressione della sofferenza. La soppressione della sofferenza. Ho potuto crederlo veramente? Credere che la morte si limiti a cancellare quel che esiste lasciando il resto com'era, che elimini il dolore nel cuore di chi dall'esistenza dell'altro non ricava più che dolori, che elimini il dolore senza metter niente al suo posto. La soppressione della sofferenza. Scorrendo la cronaca dei giornali, rimpiangevo di non avere abbastanza coraggio per augurarmi quel che s'era augurato Swan. Qualora Albertine fosse rimasta vittima d'un incidente, se viva avrei avuto un pretesto per correre da lei, se morta avrei ritrovato, come diceva Swan, la libertà di vivere. Ci credevo? Lui ci aveva creduto, quell'uomo così fine e convinto di conoscersi bene. Quanto poco si sa di quello che si ha nel cuore. Come, poco tempo dopo, se fosse stato ancora vivo, avrei potuto insegnargli che il suo augurio era tanto assurdo quanto criminale, che la morte di colei che amava non l'avrebbe liberato di niente.